24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Ebbene sì, ci siamo, cari ascoltatori. No, ci siamo nel senso piano, con la legge elettorale. Adesso... Allora, qui c'è un giallo, perché come considerare quello che è successo ieri? Cioè, ha vinto la scommessa con me Matteo Renzi? Matteo Renzi, due settimane fa, via Twitter, mi ha risposto: vedrai che questa, cioè la scorsa e la prossima, cioè questa settimana, saranno decisive per la riforma. Ho capito, ma cioè, per me decisive vuol dire una cosa, come scrive Roberto Dalimonte oggi sul Sole, il guru di Renzi, colui che ha fatto la riforma. Come esordisce Roberto Dalimonte oggi sul Sole? Così: sia chiaro, la riforma elettorale non c'è ancora. La fine di questa storia ci sarà quando il Parlamento avrà varato il testo e il Presidente della Repubblica lo avrà promulgato. Lo dice Dalimonte, sia chiaro. E quindi noi continuiamo a contare. È la 38esima settimana decisiva in corso per la riforma elettorale. Ci fermeremo quando una nuova riforma elettorale ci sarà davvero. Però pare che ci sia questo italicum. Amici di 24 Mattino, buongiorno. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E apriamo il Parlamento, perché oggi c'è una novità epocale. Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti è lì e tra l'altro oggi è stata, anzi ieri, ma lo sentiremo, è stata citata, tra poco lo sentiremo da uno dei protagonisti della politica, ma oggi... oggi c'è. Chi è oggi l'ospite del Parlamento? Chi è? A proposito di Gaglioffi, che fine ha fatto quel qua qua qua dell'osservatorio Vatte la Pesca? Che fine ha fatto? Cos'è perché l'osservatorio Vatte la Pesca? Il grandissimo Albertone Forchielli! Buongiorno! Ciao Alino, ciao. Come va? No, ma non puoi entrare. Ciao Alino, come va? Dove sei finito? Dove sei? La gente ti reclama, dove sei? No, sono a Singapore. A Singapore, mamma mia, finalmente, non negli Stati Uniti. E dunque, che ore sono lì? Qui sono l'1:35. Di giorno, e quindi sì, di giorno. Come va? Estate, sole, splende. Ah, mamma mia, che invidia. No, qui sì, si va in piscina. È un po' umido, ma insomma, comunque, fantastico. Fuori un posto fantastico. Qui le piscine ci sono nelle strade di Milano. Scendi, è vero, scendi, sì. Metti le pinne e via. Andare a lavorare in piscina. Allora, caro Alberto Forchielli, è successo un casino qui in Italia, arriva l'Italicum, la legge elettorale che Renzi ha proposto, praticamente è un doppio turno variabile, cioè se uno prende il 35%, se una coalizione prende il 35%, vince il premio di maggioranza subito, se no si va al secondo turno, che era una cosa che Berlusconi non voleva, ma è riuscito a convincerlo, ha fatto il colpaccio Matteo Renzi. Giudizio di Matteo Renzi tuo, e giudizio, so che è uscito un articolo positivo del Financial Times, che queste cose contano sui mercati internazionali. Sì, cioè, il Financial Times è uscito alla grande con una foto di Renzi, era dai tempi della crisi di Bugasconi, che non si parlava di Italia, è uscito positivo, ossia i mercati hanno visto bene questa spallata di Renzi, questo strappo di Renzi, è uscito assolutamente bene, non è che ci sia lui e Bugasconi che si abbracciano, si dà la mano e lui e basta. Quindi Bugasconi, come lo chiama Forchielli, Bugasconi cancellato la Financial Times, cioè no, c'è la foto di Renzi, c'è un articolo Io l'ho visto su iPad, ma in prima pagina, non so dove, l'edizione cartacea dove sia, foto di Renzi, racconta tutta in grande dettaglio anche gli elementi di questa proposta, racconta della riunione delle direzioni del partito. No, no, fatta vera, articolo fatto bene, anche in grande evidenza, e comunque, comunque è la prima volta da vent'anni che l'Italia dà un segnale tangibile di uscita dall'immobilismo. Oh, e allora voglio dire, per la, il Financial Times celebra insomma questa Italia che si muove a passi elevati, e vabbè, quindi una buona cosa, cioè da come uno può pensarla come vuole, però insomma un segnale positivo, no? Di come ci percepiscono all'estero, no? Beh sì, Fonzi ha avuto coraggio. Ha avuto coraggio. È uscito, si è assunto le sue responsabilità, soggetto a tante critiche, però ha aperto i giochi. Però Alberto Forchielli, che sempre ha avuto un parere su Berlusconi molto chiaro, visto che lo chiama Bungasconi, insomma ha dovuto incontrare Berlusconi. Mica altri all'interno di Forza Italia. E quando ha incontrato Berlusconi, tu che hai pensato? Ma sai, il Papa va anche a Rebibbia a fare la messa ai carcerati, quindi non è che e poi Berlusconi ha avuto i suoi problemi legali, si sapeva quali fossero già. Ci abbiamo fatto un governo 9 mesi fa e aveva già subito due livelli di condanna, per cui una cosa sono i fatti legali che lo toccano, che stanno andando avanti, l'altro fatto è innegabile che sia rappresenti una forza politica, porta dei voti, con lui bisogna trattare. Sono contento che non sia andato ad Arcore, sono contento che Renzi non sia andato a Palazzo Grazioli, mi fa piacere che sia stato un incontro alla luce del sole, perché molto spesso secondo me l'itra di D'Alema è violente, ha trafficato per 20 anni lì alle spalle, dietro, in ciuci di vario tipo. Per cui, allora, io mi auguro che Fassina abbia lucidato col Sidol il busto di Stalin nella sede, addirittura. Però capito. Però, ma c'hanno il busto, c'ha il busto, è stata una roba trasparente, è inutile nascondere. Ma c'ha il busto di Stalin, secondo te, della sede? Sicuramente. Ma chi? Fassina, lo lucida? Sì, Fassina, sì, lo tengo lì. Io penso che l'abbiano proprio lustrato. Per l'arrivo di Berlusconi. Sì, fatto dopo, vedere, dopo no? Quando è andato via, poi hanno chiamato quelli della USA a disinfestare tutto, però, capito? Però l'hanno fatto, vabbè, sotto la foto di Che Guevara pare si siano visti, no? Berlusconi e Renzi. Chissà cosa avrà pensato Berlusconi sotto la foto di Che Guevara. Ma sì, Che Guevara ormai è un personaggio al di sopra. Un po' passato. No, vabbè. È un grande personaggio, passato alla storia. Sì, non tra l'altro, che... Renzi, senti cosa ha detto Renzi, perché alle accuse, rispondendo alle accuse con chi dovevo parlare, lui allora dice, vabbè, ma se non dovevo parlare con Berlusconi, con chi dovevo parlare all'interno di Forza Italia? Senti Renzi. Dico con molta franchezza a quelli che mi dicono, dovevi sì parlare con Forza Italia, ma non con Berlusconi? Che è una contraddizione in termini, perché o si decide di non parlare con Forza Italia perché si ritiene che Forza Italia sia non un interlocutore, o si parla per ovvi motivi con Silvio Berlusconi. Non ho capito con chi avrei dovuto, con Dudu avrei dovuto parlare? Con Dudu, notizie su Dudu all'estero ne sono mai arrivate, sono mai trapelate. Sai chi è Dudu, Alberto? Sì, è cagnolino. Cagnolino, sì. Sì, cagnolino. Ma pensa che questo pezzo qui di Renzi con Dudu lo riporta anche il Financial Times. Ah, vedi sì, che... Sì. Vabbè, c'era l'inviato del Financial Times qui a seguire la vicenda, evidentemente. Comunque, il buon Renzi... Insomma, ma che dobbiamo dire? C'è un accordo, quindi mi sembra... tu sei sempre stato sferzante anche su Renzi. Vediamo se ti faccio arrabbiare più su un altro. Sai che c'è uno che dopo questo accordo, ieri intanto durante la riunione, ha voltato le spalle a Renzi e se n'è andato. Che il gesto è paragonato sul Corriere della Sera alla scarpa di Nikita Khrushchev battuta sugli scranni del l'ONU, te la ricordi, no? Nikita Khrushchev. Sai chi ha fatto questo gesto? Cooperlo, il presidente forse dimissionario a questo punto del Partito Democratico. Che ha fatto? Ha fatto bene Forchielli? Ma sai, rappresenta quella vecchia ala tradizionalista del PD che ormai ha fatto la sua storia, se non, quel finto moralismo che ormai ha stancato tutti, quindi lui è simpatico come la sabbia delle mutande, sembra una comparsa di Twilight, se me lo tolgono anche, non so cosa fare, ma certo con quella gente lì, con quei falsi moralismi, non si va da nessuna parte. Chi è la comparsa di Twilight? Cioè un vampiro? Cooperlo, sì, un vampiro praticamente. Un vampiro, l'hai mai visto? Sembra sia importato direttamente da Transilvania. Ah, dici... Per quelli i romeni votano per lui. Sì, questa sì, effettivamente quei rumeni che erano iscritti. Vabbè, insomma, quindi che deve fare? Deve andarsene, deve non lo so. Cioè, ma sono punto, cose... Io a sto punto i problemi dell'Italia sono giganteschi, Alino. La questione della la governabilità è solamente la condizione minima, necessaria per poter affrontare un processo di ristrutturazione completa dell'economia e dell'apparato sociale del paese, ma voglio dire, non possiamo, siamo rimasti 20 anni indietro, è caduto il muro di Berlino, la Cina è entrata nel WTO, siamo rimasti 20 anni indietro, adesso senza la governabilità non possiamo neanche pensare di affrontare un processo di ristrutturazione, e poi non è detto che ce la facciamo, perché rimettere l'Italia in moto in questo mondo globale è uno sforzo enorme, quindi è molto probabile che chi vada al governo poi dopo la perda la governabilità per mancanza di consenso, però senza questa governabilità non si va avanti, quella che Letta dice essere governabilità non è governabilità, è un equilibrismo solamente per tenere una maggioranza teorica in Parlamento e non fare niente, poi dopo impiegano 9 mesi a a fare il calcolo dell'IMU e lo sbagliano, capito? Sì, io manderei il sacco mani di quelli della ragioneria a dare i numeri nei CAF a tutta la gente che fa le file a pagare i mini IMU, sì, sì. Entro venerdì è un disastro, ci sono commercialisti che vengono portati via la camicia di forza. 9 mesi hanno passato per quella roba lì, sono balle, anche la balla della ripresa che ci hanno detto, il tasso di disoccupazione aumenta l'anno prossimo, andiamo dal 12,6 al 12,7, è una ripresa senza ripresa dell'occupazione. Insomma, Forchielli ci sta dicendo 0.7. Cioè, ci hanno nutrito di balle, capito? Questo qui. Sì, è vero. Sì, io ritengo, sempre ritenuto Renzi non preparato, eccessivamente ambizioso, perché per me fare il primo ministro in un paese come l'Italia talmente un lavoro del cazzo, si fa solo figure di merda. Quindi ho sempre pensato che una persona che vuole che il lavoro deve essere un po' spostata, per questo non mi sono mai fidato, l'ho sempre visto troppo ambizioso. Però adesso gli devo dare atto di aver fatto uno strappo. Sì, dice, sta facendo il primo passo, ma la governabilità non è tutto. In realtà stiamo parlando quasi del nulla o del primo tassello, no, per poi recuperare tutta una serie di cose che bisogna fare. Cioè, però è il primo passo. Cioè, L'Italia è il paese che ha sofferto maggiormente al mondo del processo di globalizzazione. Nessun paese l'ha preso così in faccia come l'ha preso l'Italia, perché gli Stati Uniti si sono salvati con la tecnologia, in parte è venuto fuori Google, è venuto fuori Facebook, è venuto fuori Twitter. Le imprese hanno delocalizzato, il nord dell'Europa si è salvato con pesantissime ristrutturazioni, l'Italia in mano con un'industria piccola, frammentata, di un livello tecnologico medio-alto, l'ha proprio presa drammaticamente male. Ah, ecco, no. quindi il processo di ristrutturazione in Italia deve essere selvaggio. Ma io non so neanche se un governo riuscirà a portarlo a termine, perché vuol dire mettere mani al costo del lavoro, vuol dire mettere mani anche a smontare la burocrazia, sì, mettere mani a tutte le rendite parassitarie. Insomma, fare quelle riforme sicuramente bisogna fare una patrimoniale per abbattere, dare una grossa botta al debito, cioè, bisogna fare cose veramente importanti. Io non so neanche se se un governo è eletto con un'eventuale nuova legge possa reggere questo. Mm. Però se non c'è neanche quello, stiamo qui a sentire le chiacchiere di Letta oppure a fare la fila ai CAF per pagare 12 euro di IMU sbagliato, capito? E non c'è, gente che, e non c'è neanche Saccomanni che ti dà il numerino, dice, neanche... Sì, neanche i numerini come in salumeria, capito? Perché c'è, sono le file, eh? No, ma è chiaro, a Varese c'era una fila, hanno pubblicato in prima pagina una fila chilometrica. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Alberto Forchielli che è tornato al Parlamento di 24 Mattino e tra poco parleremo d'altro, sentiremo anche chi ha citato Nicole Minetti. Forchielli, tieniti forte, c'è uno che ha detto con questa legge elettorale si rischiano tante Nicole Minetti e l'ha detto un insospettabile. 24 Mattino. Buongiorno Milan, ho sentito nella trasmissione di ieri che finalmente oggi rientra Alberto Forchielli. Sono contento di questo rientro perché è una persona che stimo molto. Sono fantastiche le sue allegorie. Alcuni mesi fa diceva: Letta mi sembra un moscone che sbatte contro un vetro. Provate a dire che non aveva ragione. Facci sapere che fine ha fatto i 40 saggi. Ma questi politici francesi hanno molto da imparare da noi. Che problemi ha Hollande? Bastava avesse detto: me la son trombata a mia insaputa. Qui avrebbe funzionato benissimo. Mi meraviglio di quelle persone che ce l'hanno con Renzi. Ma è l'unico che sta mettendo un po' di pepe nel sedere a questo governo. Renzi e Berlusconi hanno parlato per la legge elettorale, ma le preferenze non ci sono. Non c'è un giornalista che dica: oh, ma questi ci stanno a prendere per culo. Dopo che hanno detto in tutte le salse, dalla mattina alla sera, che si dovevano mettere le preferenze, adesso non ci sono preferenze. Milan, le prime due righe della Costituzione vanno scritte, cioè l'Italia è una anarchia costituzionale fondata su chi se ne frega. E noi questa notte qua a sbadilare dell'acqua nella mascia modenese, acqua nei capannoni, acqua nelle campagne, acqua nelle case, eh? E via che ci divertiamo. Ciao Alino, va là, sta coi piasciotti. Il problema dell'Italia sono gli italiani, un popolo retrogrado e conservatore, un popolo di merda, popolo di merda, popolo di merda! C'è dell'ottimismo, vedi Alberto Forchielli, qui gli italiani si sentono, ma io dico, ma italiani, ma dai, ma un pochino di, non dico di orgoglio, no? Albertone, dai un po' di, ma fai un appello tu che la gente chiami e dica anche delle cose positive, non è possibile, no? Quello di Modena, giustamente, che è lì, non si lamentava, quello di Modena che spala l'acqua e invece tutti gli altri a dire che siamo un popolo di disgraziati, ecco, per non dire di peggio, ma com'è possibile? Ma fu io a esordire dicendo che eravamo feccia. Sì, sì, è vero, è vero. Il problema è che noi siamo nati fortunati, il paese è molto bello, abbiamo un clima fantastico, abbiamo bellezze naturali meravigliose, abbiamo bellezze artistiche straordinarie, per cui ci siamo un po'... Ci seduti, siamo un po' viziati. Siamo viziati. Capito? Quindi siamo nati con una grande eredità che l'hanno fatto le generazioni precedenti. Com'era quella del moscone, ricordavo? Bang, ah sì, un moscone che sbatte contro i vetri, sì, perché, sì, ma ho sempre avuto anche con Letta, che conosco da ragazzo, fra l'altro, per questa... Vabbè, ma questo ormai è acqua passata. Sentiamo chi ha detto della Minetti. Sai chi ha citato la Minetti? Che offre il caffè. Senti un po', senti. Formigoni! Formigoni. La Minetti è entrata proprio perché c'era il listino bloccato. Appunto. Quindi per questo io mi sono battuto per eliminare il listino bloccato. Non voglio che si torni a listini bloccati a livello nazionale. Comunque, se no le liste saranno piene di Minetti da una parte e di Minetti dall'altra. Cioè, detto da Formigoni, Forchielli, che nel listino evidentemente se l'è ritrovata a questo punto. Lo so, quella roba lì delle liste bloccate è un prezzo, fa schifo anche a me, mi fa vomitare, è un prezzo che Renzi ha dovuto pagare a Bungasconi, perché Bungasconi non vuole parlamentari, lui vuole dipendenti, lui vuole impiegati, insomma. E quindi lui vuole liste bloccate perché vuole la capacità di mettere o togliere chi vuole, avendo concesso l'eventuale doppio turno che sfavorisce il centrodestra, il doppio turno, perché generalmente perdono, nelle città e compagnie di solito al doppio turno vince il centrosinistra più che il centrodestra, sì. Per cui quello è un prezzo che Renzi ha dovuto pagare. Senta, Berlusconi c'ha 78 anni, poi a un certo punto, capita anche lui, è vero che vivrà fino a 120 anni, poi dopo alla fine faremo ulteriori cose e apriremo le liste. Però facciamo sto primo passo. Perché tra l'altro Berlusconi... Me ne rendo conto, no, però bisogna anche essere... qui stiamo... ormai ragazzi sta scomparendo la classe media, ossia... cioè il 20% di persone sotto la soglia di povertà, ci sono dei problemi seri, non possiamo star qui a bloccare tutto. No, no, ma è chiaro, fare delle cose in fretta, invece insomma, Berlusconi rende le imprese competitive. È chiaro, Berlusconi invece ha puntato su questo 35% perché pare a dire mi gioco tutto così, cioè riesco magari al primo turno a arrivare, esatto, al 35%. Vabbè, Alberto, qua mancano un minuto. L'ultima volta che ci siamo sentiti, insomma, come va con la Cina? Una Cina che leggo anche oggi sul Sole 24 Ore segna un po' il passo dal punto di vista economico, ma ti vogliono ancora bene in Cina, ti fanno la... sì, boh, sì, no, sempre... l'ultima no, volta, sì, ma l'ultima sì, volta no, hai usato parole contro gli imprenditoria cinese, insomma, che... sì, non è che, cioè, non, intendiamoci, non è che non chiedo scusa, perché ci sono sicuramente tanti imprenditori bravi, ci sono anche i ragazzi cinesi di seconda generazione, sono bravissimi qui in Italia, li ho conosciuti in Bocconi e compagnia, però purtroppo i problemi sono quelli che ho detto. Io quello che ho detto alla radio l'ho detto perché sapevo di poterlo dire. Certo. E sapevo anche che, e loro sapevano perché potevo dirlo, per cui... Bene così. Se chiuso una partita potrebbero esserci novità, mi auguro che non ci saranno queste novità, ma la mia è stata una presa di posizione netta, perché ci sono situazioni che io so e su cui ritengo sia mio dovere parlare e anche preparare l'opinione pubblica. E allora, Alberto, io intanto ben ritornato, ben ritrovato, tutti ti accolgono con grande abbracci e ti aspettavamo, insomma, e eccezionalmente questa settimana sfruttiamo il fuso orario, so che venerdì sarai ancora con noi da Singapore. Grazie Alberto Forchielli. Noi andiamo al giornale radio e vi facciamo sentire in chiusura un Pippo Civati del PD e poi il giornale radio. Ma chi si spacca? Io esprimo il mio parere, però se non si può neanche esprimere il parere, siamo, certo, a casa. Esatto. Tra l'altro sono influenzato, è un'influenza spagnola, con la soglia 38 gradi e il doppio turno perché mi sa che mi torna, per cui se mi lasciate un attimo di spazio... Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, cari ascoltatori, eccoci pronti a leggere i quotidiani, i giornali con voi, la rassegna stampa. Vi ricordo il tema di cui parleremo oggi alle 8:15 con gli ospiti, mentre tutti sono concentrati su questa legge elettorale. Allora c'è, non c'è, intanto il conteggio continua, perché una nuova legge elettorale non mi sembra che ci sia. Ci sarà quando ci sarà. Siamo nel corso della 38esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Per ora sono parole, accordi, si farà, l'accordo è stato trovato. Beh, mentre l'Italia si interroga su questo, i giornali con paginate e paginate su questo, gli italiani invece più prosaicamente entro venerdì, diciamo, smoccolano, ecco, perché molti dovranno pagare questa mini IMU, questa TARES, insomma gli italiani e le tasse. C'è un movimento e oggi avremo in collegamento dagli Stati Uniti il rappresentante del Tea Party Italia, che propone una sorta di rivolta fiscale, cioè paghiamo le tasse ma in ritardo, con poi il ravvedimento operoso, insomma un qualcosa per far mancare il liquido necessario, i soldi allo Stato. Facciamo questa protesta, ne parleremo con Carlo Sandrin che rappresenta appunto i Tea Party in Italia, ci sarà anche Bruno Tinti e poi parleremo anche dei vitalizi della Regione Lazio. Li vorrò chiamare uno a uno se vorranno essere così gentili da risponderci dopo la campagna di Stella e Rizzo, che dicono ci sono ancora nella Regione Lazio persone di 50 anni che dopo una sola legislatura prendono il vitalizio in barba a quanto aveva previsto una legge Monti, del governo Monti, che è stata aggirata dalla Regione Lazio. Aggirata. Questo alle 8.15, andiamo a leggere i giornali. È martedì 21 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: dall'Unione Europea 100 miliardi per rilanciare l'industria, è pronto l'Industrial Compact, verrà presentato domani. La priorità per 6 settori strategici, dunque l'anticipazione sul Sole 24 Ore, mentre la legge elettorale e l'accordo sulla legge comprensibilmente prende le prime pagine degli altri giornali. Premio e doppio turno sì del PD a Renzi, così per il Corriere. Repubblica invece: Renzi blinda la legge elettorale. Per la Stampa: legge elettorale via libera del PD. Il Messaggero: legge elettorale sì a Renzi. Avvenire: Renzi sfida Italicum oppure salta tutto. Abituatevi a questo nome, tanto che l'Unità mette in prima pagina proprio questo titolo: lo chiameremo Italicum. Il Fatto Quotidiano: Renzi, prendere o lasciare, Cuperlo si alza e se ne va. Il Giornale: i voti battono i veti. Mentre Il Secolo XIX: Renzi blinda il PD e accontenta Alfano. Libero invece a questa apertura: Cabobo fuori, Silvio dentro. Il Manifesto apre su la scomparsa di Claudio Abbado, bacchetta magica, se ne va con Claudio Abbado, uno dei grandi direttori d'orchestra, uno dei più grandi di tutti i tempi. Allora, trovare oggi altre notizie sui giornali ce ne sono, però è un'impresa, ma io voglio iniziare con quelle che sono gli stralci che trovate su tutti i quotidiani di ciò che ha detto, le ultime frasi di Totò Riina. Totò Riina, il capo dei capi, mafioso condannato all'ergastolo al 41 bis, sono stralci di chiacchierate che Totò Riina fa con il suo compagno di cella, o il compagno di ora d'aria, meglio ancora, il detenuto pugliese Alberto Lorusso, che diventa in questo caso il depositario e, secondo gli inquirenti, anche l'istigatore degli sfoghi, dei propositi di morte del boss corleonese. Sono stralci che sono riportati, il Fatto Quotidiano mette per esempio tutto a pagina 2 e 3, cioè i colloqui tra Riina e il detenuto Lorusso all'interno del carcere di Opera durante l'ora d'aria. Fa veramente impressione leggere come Totò Riina ancora abbia questa rabbia totale nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato, nei confronti dei magistrati. Il titolo per esempio del Corriere della Sera è questo: il PM Di Matteo farà la fine del tonno. Capaci, cioè la strage di Capaci, fu una mangiata di pasta. Così parlò Totò Riina, gli sfoghi, scrive il Corriere con Giovanni Bianconi a pagina 17, con un obiettivo fisso: i magistrati, ieri Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, oggi Nino Di Matteo e gli altri PM antimafia. Tanto che Riina sbotta: mi viene una rabbia a me, ma perché questa popolazione non vuole ammazzare a nessun magistrato? Poi c'è anche un passaggio sull'ex presidente del Consiglio Berlusconi, del quale il boss e il suo interlocutore parlano la mattina del 6 agosto, pochi giorni dopo la condanna definitiva in Cassazione. Parla così Riina: noi su Berlusconi abbiamo un diritto, sapete quando? Quando siamo fuori lo ammazziamo. Non l'ammazziamo però, perché noi stessi non abbiamo il coraggio di prenderci il diritto. Io lo dico con la rabbia del cuore, io faccio il malavitoso e basta. Sono anche frasi, insomma, che vanno interpretate. L'italiano e la sintassi è quella che è. E ancora su Capaci: era imprevedibile, disgraziato, così parla di Falcone. Perciò quando ci siamo messi appresso alla macchina che parte, ci siamo andati appresso, lo seguivamo, il suo cervello ci ha portato il nostro alla pari, fu una mangiata di pasta. Poi dice: come avete fatto? Come facevate? Niente, semplice. È andato a vedere la mattanza dei tonni e meschino è morto per andare a vedere la mattanza. Così parla di Falcone, poi anche le risate davanti alla TV, perché quando arrivarono le notizie sono feriti lui, la moglie, minchia feriti, nel mentre il telegiornale dice è morto Falcone, la moglie, e qui Rina ride, tanto che poi 2 mesi dopo per Paolo Borsellino dice ho detto se serve mettetegli qualche 100 chili in più. E poi Rina parla anche di Messina Denaro, l'attuale considerato numero uno della mafia, latitante. A me dispiace dirlo, questo signor Messina che fa il latitante, che fa questi pali, questo si sente di comandare, si sente di far luce dovunque per prendere soldi. A noi ci tengono sempre in galera, ma quando siamo liberi li dobbiamo ammazzare. Io ho fatto il mio dovere, ma continuate, continuate. Qualcuno, non dico magari tutti, ma qualcuno, divertitevi. E invece non succede niente, al che Rina commenta: una papera non sono capace a pigliare, neanche una. E insomma, tanti commenti, c'è anche il commento del soddisfatto Totò Riina, come titola anche il Sole 24 Ore, per il fatto che Napolitano non vada a testimoniare al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Un bene se Napolitano non testimonia al processo. Insomma, ci sono tanti spaccati della vita in carcere di Totò Riina affidati a questo compagno di Ora d'Aria, e che trovate davvero ovunque sui giornali, spaccati davvero inquietanti anche per il disprezzo con cui parla ancora di persone che sono state sue vittime, a cominciare da Falcone e Borsellino. L'altra vicenda giudiziaria che per il Libero addirittura viene messa in prima pagina e che certamente farà discutere è quella di Cabobo. Ricordate colui che ha ucciso a caso 3 persone prendendole a picconate in un'alba lontana dell'11 maggio scorso a Milano? Ne ha uccisi 3 a caso, ma non può stare in cella, così pagina 19 di Libero. È la perizia. La perizia dei professori che si sono alternati nel cercare di analizzare la psiche di Cabobo. Ebbene, secondo la perizia chiesta dal tribunale del riesame, il ghanese va trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Le sue condizioni di salute sarebbero incompatibili con la cella del carcere. A dirlo è il dottor Marco Scaglione, che ha integrato la perizia presentata lo scorso ottobre dallo psichiatra Ambrogio Pennati e dalla criminologa Isabella Merzagora. 150 pagine che avevano accertato come l'imputato soffra di una forma di schizofrenia, ma che può partecipare al processo in quanto al momento dei 3 omicidi la sua capacità di intendere e volere era grandemente scemata, ma non totalmente assente. Una nuova relazione medica, arrivata dopo l'istanza di 2 avvocati di Cabobo, che avevano chiesto al tribunale il trasferimento del loro assistito in luogo di cura in regime di custodia cautelare. E allora le conclusioni di Scaglione saranno discusse in un'udienza fissata il 27 gennaio. Solo allora i giudici decideranno sull'eventuale trasferimento del detenuto. Ovviamente tutto questo viene anche la Lega, si arrabbia, Libero mette Cabobo fuori e Silvio in carcere. Mettendo 2 vicende che sono totalmente slegate, ma insomma fa titolo, e certo questo fa discutere anche l'opinione pubblica, perché il caso fu un caso che ricordate scioccò moltissimo. Libero tra l'altro intervista anche alcuni parenti delle vittime, come il papà di Daniele. L'ultima vittima, Daniele Carella, aveva 21 anni. Non so se credere ancora nella giustizia, dice così Savino Carella, padre di Daniele, l'ultima vittima di Cabobo, che a 21 anni si svegliava all'alba per aiutare il papà a consegnare il giornale. Tra l'altro è morto vicino a lui, vicino al padre. Voglio, prima della pubblicità, raccontarvi anche di questa di questa notizia che c'è sul quotidiano Repubblica. Oh, non leggerò oggi tra l'altro le firme degli autori di Repubblica, perché Repubblica esce con le firme, senza firme degli autori degli articoli. È una protesta, un'agitazione decisa dal comitato di redazione di Repubblica, e dunque tutti gli articoli di Repubblica escono non firmati. Comunque su Repubblica c'è questa notizia che è molto interessante, visto che c'è un'altra tassa da pagare tra poco, cari italiani, il canone della RAI. Ebbene, sapete, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi col presidente della Commissione Vigilanza RAI, Fico, del Movimento 5 Stelle. Il canone RAI quest'anno è a 113 euro. La prima domanda che fece a Fico è: tanto o poco? Beh, secondo la RAI, secondo il CDA della RAI, questa cifra è poco. Tanto che, secondo Repubblica, la RAI è pronta a denunciare al TAR il ministro Zanonato, il Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha bloccato l'aumento del canone. La RAI va al TAR, il canone va aumentato. Questo è il titolo di Repubblica. Il vertice della RAI, scrive Repubblica, non ha digerito la decisione del governo di bloccare a 113,5 euro l'importo del canone per il 2014. E i consiglieri di amministrazione della RAI, delusi e arrabbiati, suggeriscono al presidente Tarantola la più dura e clamorosa delle iniziative. Viale Mazzini vuol depositare un ricorso al TAR del Lazio contro il decreto del ministro Zanonato che ha congelato l'aumento dell'imposta della TV. Piccolo problema, il decreto non compare ancora sulla Gazzetta Ufficiale. La RAI dunque deve prima aspettare che il testo arrivi in Gazzetta per poter articolare la sua risposta e il suo ricorso. In linea di principio, scrive Repubblica, le ragioni della TV di Stato sono chiare. L'aumento del canone avviene ogni anno come in automatico in base a quanto prevede la legge Gasparri. E invece quest'anno la decisione del governo ha un impatto immediato sui conti della TV di Stato, che perde così 21 milioni di euro. C'è il tentativo di bloccare, o meglio la decisione di bloccare del governo, e la RAI pensa di fare ricorso al TAR. Dunque pagate il canone e poi magari 113,50 euro, e poi magari chissà, magari vinco il ricorso al TAR, c'è un ricorso al TAR e va pure aumentato. Farete una fila come per la mini IMU per il conguaglio del canone. Chi lo sa? Intanto andiamo in pubblicità. 24 mattino. Allora siete pronti, cari italiani, a un'imbarcata di paginate sull'Italicum. L'Italicum, il Porcellum c'è ancora, ma verrà sostituito dall'Italicum. Eccolo qui. È questo qui il nuovo sistema elettorale che ieri Matteo Renzi ha illustrato alla direzione del PD. Ha incassato 111 sì, 34 astenuti, c'è stata una spaccatura. Cuperlo, presidente del Partito Democratico, a un certo punto si è alzato polemicamente, è andato via mentre Renzi parlava. Addirittura il Corriere paragona questo, per le sacre stanze del Partito Democratico, quasi come il gesto di Nikita Khrushchev che batté la scarpa sugli scranni dell'ONU. Insomma, forse siamo all'esagerazione, ma il gesto è clamoroso. Il presidente del PD che prende, si alza e se ne va mentre il segretario sta parlando. E tra l'altro Cuperlo starebbe pensando alle dimissioni. Queste sono le notizie sui giornali. Comunque Renzi vara l'Italicum a doppio turno. Così il Sole 24 Ore a pagina 5. Scontro in direzione con Cuperlo, 111 sì, 34 astenuti. Oh, su tutti i giornali intanto si capisce di che cosa stiamo parlando, cioè che cos'è questo Italicum. È una legge elettorale che dovrebbe essere approvata, se tutto va bene, entro maggio. Ed è una legge elettorale che prevede il doppio turno, un doppio turno possibile, un doppio turno eventuale, nel senso, se le coalizioni, la coalizione che vince guadagna il 35% al primo turno, guadagna subito il premio di maggioranza e finisce lì. Se invece nessuno ottiene il 35%, si va al secondo turno. La soglia di sbarramento invece è al 5%, tanto che i partitini come la Lega dice una legge schifosa, ci opporremo in tutti i modi perché rischiano di rimanere fuori dal Parlamento. Comunque Roberto Dalimonte, che è il guru di Renzi, è il politologo, uno dei massimi esperti di leggi e riforme elettorali, è colui che ha messo insieme questa legge per Renzi insieme a Denis Verdini dall'altra parte per Forza Italia, ed è editorialista del Sole 24 Ore, oggi spiega sul Sole in prima pagina ecco perché può funzionare. Intanto Dalimonte fa una premessa benedetta per me, perché qualcuno già mi scrive: smetti di contare le settimane decisive. Oh, ma che siamo matti, la riforma elettorale non c'è. E come scrive Dalimonte, la riforma elettorale non c'è ancora. Questo è l'inizio del suo articolo. Oh, mi conforta nel senso che posso continuare a contare. Ma, scrive Dalimonte, l'accordo sul quale, su quale debba essere c'è. La fine di questa storia però ci sarà quando il Parlamento avrà varato il testo e il Presidente della Repubblica lo avrà promulgato. Sono passaggi delicati e non scontati. Ma, scrive Dalimonte, ha buone chance di arrivare a una conclusione positiva, perché PD e Forza Italia, ma è il caso di dire Matteo Renzi e Berlusconi, condividono lo stesso obiettivo. Entrambi sono schierati fermamente a favore del bipolarismo e della democrazia dell'alternanza. Chi temeva che un Berlusconi indebolito volesse puntare a una riforma non maggioritaria, sfruttando la decisione della Consulta che ha reintrodotto un sistema proporzionale, si deve ricredere. Con il nuovo sistema elettorale, scrive Dalimonte, saranno i cittadini a decidere chi debba governare. Le coalizioni dovranno formarsi prima del voto e non dopo. E spetterà agli elettori valutare la qualità e la credibilità delle alleanze proposte dai partiti. E poi che cosa si tratta? In pratica è un premio di maggioranza e doppio turno. Questi gli elementi centrali del nuovo sistema. La loro combinazione rende il sistema majority assuring, cioè garantisce che le elezioni diano al vincitore la maggioranza assoluta dei seggi. Chi ottiene un voto più degli altri incasserà un premio di maggioranza del 18% se arriverà al 35% dei voti. Se invece nessuno arriverà a questa soglia, le due formazioni più votate si sfideranno in un ballottaggio. Il vincitore avrà diritto alla Camera al 53% dei seggi, cioè 327 seggi. Nessuno ne potrà avere più del 55% grazie al premio. E vabbè, insomma, è una questione anche molto tecnica la riforma elettorale, però ci sono i commenti. Il sindaco e segretario del PD Matteo Renzi, come scrive Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera, dice: abbiamo fatto una grande cosa, un giorno di soddisfazione, tanto che va in giro a dire ai suoi più stretti collaboratori: vi è piaciuto il cucchiaio? Ora qua bisogna fare una parentesi per chi non si intende di calcio. Il cucchiaio è quel modo di battere il rigore un po' strano che spiazza il portiere, perché lo disorienta, no? Con un pallonetto un po' beffardo. E Renzi continuava a dire ai suoi collaboratori così: ora faccio il cucchiaio, che è un modo di dire trovare una formula geniale per sparigliare le carte e spiazzare un po' tutti. E secondo Renzi questo l'ha trovato con questo sistema. Vi è piaciuto il cucchiaio, dice ai suoi. Ci sono i litigi, c'è Massimo D'Alema, racconta al Corriere della Sera, che si aggirava ieri nei corridoi del PD a dire: ma vi rendete conto, questo ci presenta un accordo chiuso e ci dice di prendere o lasciare. Era imbufalito il premier, l'ex premier D'Alema, tanto che tutto si è concretizzato nell'ira di Cuperlo, presidente del PD, che, come scrive La Stampa, se ne va e pensa di dimettersi. A un certo punto c'è stato lo scontro quando Renzi sulle preferenze. Cuperlo vuole le preferenze, molti dicono: ma come le preferenze, ci sono ancora i listini bloccati. E allora Renzi ha sbottato dicendo: vuoi le preferenze proprio tu che sei stato eletto nel listino, nelle elezioni del PD, non hai neanche fatto le primarie. A che affronto di Cuperlo, che si alza, se ne va, Fassina che urla: questo è inaccettabile. E Cuperlo che ora pensa alle dimissioni. Insomma, Renzi ha portato a casa questo accordo, cioè i voti del PD, ma ha spaccato un po' il partito con l'ala dei dalemiani che ora sono sul piede di guerra. Anche Repubblica scrive: la minoranza del PD sale sulle barricate, il presidente Cuperlo dice: sono pronto a dimettermi, la lite col segretario, e Cuperlo dice: mi ha offeso. Insomma, un nuovo caso Fassina. Anche per Libero, Cuperlo verso le dimissioni. Sta di fatto che la soddisfazione c'è anche di Forza Italia, perché Berlusconi ha voluto questo accordo, ha digerito il doppio turno, che è una cosa che Berlusconi non voleva, ma secondo gli stretti collaboratori lo ha digerito, perché punta tutto a vincere, a ottenere questo 35% al primo turno, magari rimettendosi in coalizione con il nuovo centrodestra di Alfano. Il cavaliere soddisfatto, è un successo, ma teme per gli effetti di Forza Italia, così è il titolo del Corriere della Sera a pagina 6 con l'articolo di Paola Di Caro. Vabbè, ci sono anche le interviste che vi segnalo di Calderoli. Questa legge è un porcellum bis, dice a Libero. Praticamente Renzi ha rifatto la mia legge. Sono rimasto sorpreso, mi aspettavo il modello spagnolo, invece ho appena sentito un funzionario del ministero che mi ha detto: ma Roberto, questa è una Calderoli bis. Insomma, colui che è additato come l'autore del Porcellum dice: io avevo dato il nome Porcellum alla legge elettorale, avevo detto che quella che avrei voluto io era diversa e che l'intervento di alcuni partiti dell'allora maggioranza l'avevano trasformata, snaturata, fatta diventare quella che io stesso ho definito una porcata. Quella presentata da Renzi assomiglia molto al mio modello iniziale. Insomma, Calderoli dice in realtà è uguale più o meno a quella che proposi all'inizio, e lui sapete che dice sempre: la porcata l'ho definita io, ma in realtà io non volevo la porcata, sono i partiti che cambiarono la mia legge, quella simile a quella di Renzi, in una porcata. Vabbè, qui mentre l'Italia e i giornali si interrogano su questa legge elettorale, gli italiani si interrogano, si guardano nelle portafogli per capire intanto se hanno i soldi, in questo caso sì, perché magari sono cifre piccole, e poi se sanno come fare per pagare questa mini IMU e questa TARES che scade venerdì. Voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore, eccoci Mauro. Buongiorno Alessandro. Io ho i soliti due eurini, ma non lo so che farmene, ormai tutti me li chiedono, a un certo punto finiranno. Comincio la lettura oggi di pagina 2, c'è sì. Un riepilogo molto circostanziato della vicenda. È chiaro. Puoi andare sul nostro sito, lo sai, www.sole24ore.com, c'è il calcolatore, ci sono tutte le spiegazioni. Poi, diciamo, se ancora la cosa non ti è chiara, puoi proseguire nel tuo approfondimento del sapere. Oggi abbiamo anche delle pagine dedicate alla riforma del condominio, che è comunque abbastanza importante. Lì per il momento non c'è niente da pagare. Ti svelerò un segreto, Mauro Meazza: non sono proprietario di casa. E quindi, però abiterai pure da qualche parte. Certo, insomma, questo è vero, sotto i ponti. Sì, non diamo questa visione pauperista. Della radio, insomma, del gruppo. Dove abiti avrai comunque, insomma, dei vicini, chiaro. Condomini anche tu con cui convivere, quindi potresti leggere. Scusa, già che sono un po' nella sezione di norme e tributi, un messaggio qui Radio Fisco: visto sulle compensazioni, attenzione, c'è questo nuovo visto sulle compensazioni, è importante. Se ci sono compensazioni da fare, adesso la legge di stabilità ha cambiato le regole, ne parliamo in nome. E chi ha capito, capisce. Esatto. Poi volevo parlarti di una cosa che a parte l'intervista di Angelo Mincuzzi a Falciani, che oramai è un personaggio, è un vero personaggio, mi aspetto a questo punto una sceneggiatura, un film, qualche cosa, insomma, perché questo signore è fuggito con migliaia e migliaia di conti, più o meno segreti, con stati, polizie di 3, 4, 5 paesi che lo cercano, è bellissima. No, volevo raccontarti una cosa di uno scambio, perché temevo che tu stamattina mi parlassi di uno scambio. Uno scambio tormentato. Sì. Allora, hai presente il Presidente della Repubblica francese? Sì. Ecco, c'è stato il concessionario parigino di una nota marca di scooter. Sì. Che dice: ma come, Monsieur le President, lo scriviamo oggi nelle pagine di finanza, nei parterre, sono dei corsivi di finanza. E gli ha detto: ma Monsieur le President, ma lei va a trovare la signorina Julie con uno scooter non francese. E propone uno scambio, insomma, dice: ma va poi con uno scooter italiano, parbleu. E lui cosa ha detto? Ma non ero io. No, non ha detto. Ha scritto al ministro, il ministro per il rilancio, quello che da noi sarebbe probabilmente il ministro per lo sviluppo economico. Sì. Dicendo: almeno vai a tradire la moglie o la compagna con un mezzo francese, perché così giusto. Un doppio tradimento, no? C'è anche un tradimento dell'industria francese. Effettivamente è un aspetto che non avevo ancora affrontato, questo. E qui quindi gli propone, penso che gli proponga uno scambio, ecco. Adesso non so se poi lo scambio si mettono d'accordo, devono fare le visite mediche allo scooter, esatto, e altre cose. Esatto, come Guarini e Vucinic. Guarda che ce l'ho qui pronta la gazzetta, non ti preoccupare. No, lo so che tanto mi aspettavi al varco. No, comunque al varco. Va tutto bene, tutto ciò che la presidenza, la dirigenza decide va bene. Noi va aderiamo entusiasti. Mauro, allora ti devo salutare, ci sono le informazioni sul traffico, tu ti riferisci allo scambio Guarin Vucinic, c'è il titolo della gazzetta, ma lo leggerò in chiusura, tra poco. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, dicevamo, entro venerdì bisogna pagare questa mini IMU, questa TARES. Noi parleremo di questa rivolta fiscale che è proposta dal Tea Party in Italia alle 8:15. Detto questo, ci sono le file, c'è la rabbia degli italiani, c'è anche questa storia del canone con la possibilità che la RAI denunci, faccia ricorso al TAR nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha per decreto bloccato l'aumento del canone quest'anno. Sta di fatto che anche l'Unità dedica due pagine a questa situazione che ha dell'incredibile, ma le file della gente che non sa come pagare questa mini IMU. TARES, mini IMU e compagnia, come far arrabbiare i contribuenti onesti. Due pagine di Massimo Franchi, Laura Matteucci, sono sull'Unità, Silvia Gigli da Firenze, Milano, Roma, le situazioni città per città, Andrea Bonzi da Bologna, a raccontare davvero il disagio e le file clamorose delle persone. Come scrive l'Unità, onesti, cioè contribuenti che fanno il proprio dovere e vanno a pagare e devono continuamente pagare. Poi devono leggere sui giornali questa notizia, una notizia che viene riportata, per carità, c'è il beneficio del dubbio, vedremo come si evolverà, vedremo che succederà. Leggono questa notizia: 1200 case, 2 miliardi, 1200 case. Tu, Peter Bescapè, quante vite dovrai vivere per avere 1200 case? L'evasione record della Dama Chic. Questo è il titolo, per esempio, sul Libero. Sotto inchiesta Angela Armellini, figlia del costruttore Renato, gli immobili, tra cui 3 alberghi intestati a prestanome. Questa è l'accusa, ovviamente. La figlia del re del mattone, quei 1200 immobili fantasma. Questo è il titolo della stampa. E su Il Messaggero, nasconde al fisco 2 miliardi, evasi 190 milioni, l'erede degli Armellini, donna Angela, tosta e super chic, tra processi, scandali, nuovi business. Insomma, 1243 unità, scrive Il Messaggero, perfino una cifra difficile anche da immaginare. E questa è l'eredità che sarebbe stata nascosta, secondo l'accusa, con residenze fittizie a Monte Carlo. E Ale non paga le tasse su 1243 case, anche è il titolo di Repubblica. Ecco, cari contribuenti. Oppure, se leggete questa notizia da Libero a pagina 23, per il comune erano poveri rom, ma avevano un tesoro da 2 milioni di euro. Succede a Roma, sequestrati conti correnti e gioielli a 20 famiglie nomadi, risultavano nulla tenenti, per questo godevano di alloggi e utenze gratuite, assegni per i loro figli. Ed erano invece intestatari di 2 milioni di capitali sequestrati. Pagina 23 di Libero, Rita Cavallaro, fruivano di alloggi e utenze a carico del comune, in banca però custodivano 2 milioni di euro. Il tesoretto dei nomadi della capitale è stato sequestrato ieri dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha confiscato a 20 persone di etnia rom titoli di credito, conti correnti, gioielli. Zingari milionari finiti nel mirino delle Fiamme Gialle ufficialmente versavano in una situazione di grave indigenza, per questo avevano una serie di agevolazioni e l'assistenza del comune. Non è neanche la prima storia del genere. Va bene, come detto, c'è la vicenda della Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, c'è una rivolta in corso da parte dei tifosi dell'Inter. Guarin per Vucinic, interisti in rivolta. Questo è il titolo di prima pagina. Oggi toccherà a Toiri, il presidente dell'Inter, dire l'ultima parola, perché questo scambio che è stato proposto nel calciomercato di gennaio, Guarin dell'Inter alla Juve, Vucinic dalla Juve all'Inter, uno scambio che è stato vissuto dai tifosi interisti come un affronto clamoroso per quel che riguarda questa trattativa, che è stata bloccata temporaneamente. Si dovrà esprimere il presidente dell'Inter Toir, ma chiaramente la sensazione è che ormai si è state fatte anche le visite mediche e quindi in qualche modo la concluderanno con un conguaglio economico e via. No, mi ero dimenticato, non viene dopo lo sport per importanza, ma viene prima certamente, ma mi ero dimenticato la notizia che riguarda i Marò italiani che sono in India, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone. Potete trovare anche questa notizia di cronaca su tutti i giornali. La Corte Suprema indiana dà al governo 14 giorni per decidere, una vicenda davvero infinita dal punto di vista giudiziario. I dettagli e il titolo l'ho letto a pagina 13 del Corriere della Sera. Se la situazione non sarà chiarita, la difesa proporrà il proscioglimento dei fucilieri, per tenervi aggiornati su questa vicenda. Siamo al momento decisivo, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento della carta costa. E oggi abbiamo trovato niente. Non l'ho trovato. Oggi mi sono sforzato. Ho cercato, vabbè, potremmo dire le 10-15 pagine di alcuni quotidiani sulla vicenda del presunto accordo, l'accordo sulla legge, niente. E allora quando non si trova niente, come ricordo io su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, ricordatevi che la carta costa, ma anche il microfono costa. Giornale Radio. Sono le 8:18 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, mentre la politica si interroga su questo accordo per la riforma elettorale, l'Italicum che arriva, i giornali lo fanno con paginate e paginate. Per carità, non voglio sminuire, è una cosa molto importante, forse siamo davvero vicini a una svolta per una riforma attesa e importante e attesa da tempo, anche se non c'è ancora la riforma elettorale, ecco, non cadete in questo trappolone, forse ci sarà a maggio se tutto va bene. Ma insomma, mentre i politici si concentrano su questo, gli italiani stanno in fila, alcuni di loro. Le file le abbiamo viste plastiche da paese, secondo me, incivile, cioè persone che in provincia di Varese, soprattutto lo rappresentava la Prealpina, il quotidiano di Varese, sono lì in fila per capire come e quanto dovranno pagare di mini IMU entro venerdì, o quanto dovranno pagare di TARES. Beh, insomma, un paese che riduce le persone a mettersi in una fila del genere sicuramente non è un paese civile, su questo penso si possa convenire tutti. Ma comunque parliamo di questi italiani che invece si preoccupano meno dell'Italicum e si preoccupano un po' di più di mettere mano al portafogli, tanto che ne vogliamo parlare degli ospiti, uno dei quali propone una rivolta fiscale con anche delle conseguenze. E tra l'altro l'ospite ci parla da Washington, lo ringrazio perché è piena notte, si tratta di Carlo Sandrin. Buongiorno Sandrin, buonanotte per lei. Buongiorno Milan e buongiorno ai suoi ascoltatori. Allora, le due. Lei è responsabile dei rapporti internazionali del Tea Party Italia e coordinatore anche del Veneto, di questo movimento che è nato appunto negli Stati Uniti. T sta per Taxed Enough Already, cioè già abbastanza tassati, ma ricorda anche ovviamente il Tea Party, il Boston Tea Party, no? Da cui nacque poi tutta la rivoluzione per l'indipendenza americana. Con noi c'è anche Bruno Tinti, ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano. Buongiorno Tinti e ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, Sandrin da Washington, lei propone una rivolta fiscale bella e buona, cioè, cari italiani, intanto non pagate le tasse, possiamo dire così? Guardi, mira, noi quello che facciamo è paradossalmente invitare a rispettare la legge, E cioè noi invitiamo i contribuenti, i privati ma soprattutto le aziende, a rispettare quella norma prevista dal codice che consente di pagare i tributi in modo differito di 12 mesi e si chiama ravvedimento operoso. Mm. Questa operazione ha due aspetti. La prima è consentita il pagamento in modo differito ad un tasso di interesse a favore dello Stato molto basso, circa del 3,5% di 12 mesi. Questo significa che per i moltissimi imprenditori veneti, perché questa cosa ci tengo a sottolineare, parte, nasce, viene pensata dal Diparti Veneto, che è una stazione indipendente del Movimento Mondiale, sia Diparti Italia che appunto il Movimento Mondiale Diparti, consente agli imprenditori di pagare in modo differito ad un tasso di interesse del 3,5%, che è molto più basso rispetto al tasso di interesse passivo che l'imprenditore stesso nei confronti della banca. So, prima di tutto è un metodo per auto. Cioè, per trovare addirittura dei finanziamenti, nel senso, noi, visto che il ravvedimento operoso permette di pagare in maniera differita con un tasso del 3-5%, sono insomma tassi vantaggiosi rispetto a quelli che sono molto i vantaggiosi. Basti pensare che il tasso passivo medio è circa del 6,5% per un affidamento bancario, visto che stiamo parlando di liquidità in questo caso. Il secondo aspetto, che è quello più importante, che personalmente mi sta a cuore e ci sta più a cuore come Dipartimento e Veneti, è quello di dare un colpo decisivo ed importante a questo Stato canaglia che depreda l'80%, perché il total rate taxation, cioè la tassazione totale tra imposte dirette e indirette, supera l'80% in Italia, dà di un colpo formidabile assestando un ammanco nelle casse dello Stato tale da mettere in crisi lo Stato stesso. Però ecco, Sandrin, sono due aspetti interessanti. Allora, mi faccia capire, intanto voi lo volete fare, invitate questo, prendiamo l'aspetto, il secondo che ha detto, cioè quello di cercare di dare un colpo allo Stato canaglia, cioè far mancare le risorse allo Stato in modo da obbligare lo Stato a fare che cosa? A tagliare la spesa pubblica? Ma guardi, per quel che ci riguarda lo Stato deve andarsene, cioè noi desideriamo, auspichiamo, ci sentiamo veneti, non italiani, vogliamo il nostro Stato veneto autonomo, chiediamo allo Stato italiano di smobilitare i propri uffici, la propria presenza, che per quel che ci riguarda è una vera e propria occupazione, e i morti nelle nostre terre lo confermano, perché stiamo parlando di una guerra. Non si contano più se non a centinaia gli imprenditori che si sparano per dignità, perché non ce la fanno più a pagare, stretti dalla morsa fiscale di questo Stato canaglia. Perciò, per quel che ci riguarda, se ne vada, istituiremo un referendum il prima possibile, se ne parla la legge 342 in Consiglio regionale per l'indipendenza del Veneto. Questa non è che un'altra altro passo verso l'indipendenza. Insomma, questo l'indipendenza. Però intanto, e vabbè, su questo vorrò poi il commento di Bruno Tinti. Lei sa, Sandrin, come ci fanno notare gli ascoltatori, che chi ricorre al ravvedimento operoso, ma lo fa in maniera strumentale, c'è una sanzione. Quindi le agenzie delle entrate puniscono anche con una sanzione chi ricorre al ravvedimento operoso, proprio come sta dicendo lei, cioè pur potendo magari pagare le tasse, ma facendolo in maniera strumentale per mettere in difficoltà, per fare una protesta fiscale. E quindi le faccio una domanda: ma secondo lei lo Stato italiano non usa gli organi di sicurezza, le forze dell'ordine, Guardia di Finanza, in modo strumentale per estorcere denaro ai contribuenti? Su questo si può discutere, ma lei come può invitare delle persone a fare un ravvedimento operoso, che poi queste persone devono pagare una sanzione perché hanno usato strumentalmente questo sistema? Capisce che in pochi la seguiranno, questo voglio dire, se c'è anche questo. Guardi, tipo di... il fatto che in pochi ci seguiranno non è vero, anche da un punto di vista statistico, perché le mail che abbiamo ricevuto sono talmente tante da non aver avuto modo di leggerle tutte. Abbiamo superato le 6.000 decisioni, in realtà siamo leggermente sotto le 6.000, sono circa 5.900, ma rapidamente le supereremo. le 6.000 adesioni tra cittadini privati, ma soprattutto imprenditori, con moltissimi artigiani, sintomo della crisi estrema in cui questo settore in Veneto versa, ma moltissimi ci scrivono: guarda, anche se non avessi voluto aderire, sono costretto a farlo perché non ho il denaro per pagare. Faccio prima di tutto, le cifre di chi aderirà, volente o nolente, sono altissime. E in secondo luogo, i grandi cambiamenti della storia e della storia a dircelo, prima di tutto non si fanno rispettando le leggi. E secondo, se c'è una legge come questa a disposizione, la interpreta con un briciolo. Insomma, di le rivolte nascono così. Coraggio. Allora, serve coraggio, 6.000 adesioni. Ha sentito Bruno Tinti intanto? Sì, ho sentito. E perché sorride? Non fosse sotto un certo profilo tragico, veramente ci sarebbe da ridere. Questo signore propone che il Veneto sia guerra allo Stato italiano, immagina un referendum per l'indipendenza che è chiaramente legalmente inammissibile. È un po' la mosca cocchiera, sa, quelle pulci che fanno una voce grossa ma non contano niente. Però, dovendolo prendere sul serio, allora cominciamo a dire che sta commettendo un reato. L'articolo 414 del codice penale spiega che chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto dell'istigazione da 1 a 5 anni. Ora, siccome non pagare le imposte e non presentare la dichiarazione, presentare una dichiarazione infedele sono reati, la prima cosa da fare è prendere lui e le persone che collaborano con lui. Sta istigando gli italiani a disobbedire. Lo dice abbastanza chiaramente, dice, cioè, le rivolte fiscali e i grandi cambiamenti della storia avvengono anche attraverso delle rivolte. Adesso paragonare, che, come dire, la rivolta del Veneto contro lo Stato italiano, la guerra di indipendenza americana, ci va veramente una scarsa coscienza dei propri limiti. Ma comunque, uno che propone una rivolta e quindi di disobbedire alle leggi, è ovvio che lo Stato lo mette in prigione. Fra l'altro ci sono tutti gli estremi, perché è lui stesso che sta dichiarando che intende perseverare nella condotta criminosa, quindi proprio sarebbe un ordine di cattura facile. E che dobbiamo fare? Protenti, mi stai dicendo, dobbiamo andare, mandate le guardie ad arrestare Sandrin, dai. Certo, è una cosa, una condotta eversiva, sta invitando gli italiani a disobbedire alle leggi dello Stato. Questo, fra l'altro, come dire, quella malcelata simpatia che mi pare che questo signore desti, è, se vogliamo, l'aspetto più pericoloso della sua condotta, perché è segno di una cultura assolutamente invisa, per non dire incostituzionale, per cui l'evasore non è un delinquente più pericoloso di altri, è proprio una persona nei cui confronti che dobbiamo fare? Mandiamo le guardie contro l'evasore? Accidenti. No, ma ho capito, ma dico, no, io dico miliardi all'anno. No, io dico, si rende conto che sta cubando più di tutte le rapine che vengono fatte, no, in Italia. Però mi scusi, Tinti, io sto dicendo, perché lei ha colto nella mia ironia, mandiamo le guardie, nel senso, durante una trasmissione radiofonica, che dovrei fare? Io dico, un appello alle guardie, in questo caso di frontiera, a dire: appena sbarca da Washington, arrestate Sandrin. È questo il senso. Ma questo, se bisogna che lo faccia lei, lo farà la procura competente. Questi sono reati che, insomma, poi ci penserà la magistratura. Ma vede, al di là di questo, che è un aspetto strettamente tecnico, mi viene in mente, per restare sul piano dei paradossi, che la risposta dello Stato nei confronti di Sandrin e di gente come lui alla fine diventa pure semplice: non avere tasse in Veneto, perfetto, noi da domani, visto che voi non volete contribuire, non facciamo la manutenzione delle vostre strade, chiudiamo i vostri ospedali, chiudiamo le vostre scuole pubbliche, arrangiatevi. Voglio vedere che cosa pensate di fare. Credo che sia un po' la linea che Sandrin persegue, peraltro, l'arrangiatevi. Mica tanto, sa, perché questa gente qui, da una parte, pretende l'autonomia, pretende di non pagare le imposte, pretende di non contribuire alle necessità dello Stato, ma dall'altra dà per scontato che il territorio, la manutenzione del territorio dove vivono, quella deve continuare come fino adesso. Non vuole dire Sandrin a gestirsi le autostrade del Veneto, senza soldi. Vediamo un attimo, devo andare in pubblicità e poi riprendiamo questo discorso con Carlo Sandrin e Bruno Tinti tra 5 minuti. Insomma, l'accusa Sandrin a dire si vuole istigare a un, si istiga a un reato, e poi è una finta autonomia quella che volete, perché poi volete che ci sia l'aiuto dallo Stato centrale per le cose che contano. Riprendiamo tra un attimo, 24 mattino. Eccoci alle 8:36 minuti. Allora, con Bruno Tinti e con Carlo Sandrin da Washington, responsabile del Tea Party in Veneto. Allora, Sandrin ha sentito, si rende conto di, dice Tinti, di incitare a un reato, il che è un reato, sì, guardi, di per sé stesso. Visto che siamo Milan stamattina stiamo parlando di auspici, io auspico ed invito Tinti a fare una cosa che io per primo sto già facendo, e cioè a studiare. Pensi che mi sono mosso a Washington per capire un po' di più come funziona lo sviluppo economico internazionale. E Tinti deve studiare, perché evidentemente non conosce il codice, perché quello che noi stiamo facendo è invitare a rispettare una norma prevista nel codice. Beh, insomma, lei però dice invita le persone a non pagare per non far affluire denaro alle casse pubbliche, e ripeto, è sanzionato l'uso strumentale del ravvedimento operoso, l'uso strumentale del ravvedimento operoso va dimostrata nella strumentalità, poiché se lei lo sta dicendo fatelo, quindi voglio dire, no, attenzione, perché la differenza è sottile. Se l'artigiano, l'imprenditore o anche il privato contribuente non ha denaro, e questo è il caso, non ha denaro per pagare il tributo, l'uso del ravvedimento operoso è tutt'altro che strumentale, ma anzi rientra al 100% nella fattispecie con la quale il legislatore ha previsto il ravvedimento operoso. È chiaro che personalmente mi aspetto che il ravvedimento operoso sia levato a breve e perciò non sarà più legge. A quel punto invitare al pagamento dilazionato sarà reato. In questo caso, ripeto, non è reato, ma è invito al rispetto del codice. Sì, però lei, Sandrin, ha usato parole, dice, cioè togliere allo Stato canaglia. Lei vuole che lo Stato canaglia si levi, vuole affamare lo Stato canaglia, sottrarre 60 milioni. Certo. Cioè, queste cose sono abbastanza chiare. Insomma, non è che si può adesso dire no, ma. Sì, paradossalmente nel pieno rispetto della legge. Perché, torno a ripetere, il ravvedimento operoso, lo ripeto ancora una volta, è una fattispecie già utilizzata da migliaia di contribuenti, e quest'anno vedrà il picco di utilizzo causa impoverimento generale del tessuto. Questo certamente. Veneto, ma non solo Veneto, perché in realtà le adesioni arrivano da tutta Italia, sì. Proprio perché questo Stato ha ridotto i suoi contribuenti a due strade, sì. O indebitarsi con le banche. No, ma questo non c'è dubbio che ci siano molte persone in difficoltà, sì, questo certo, però un attimo. Mi chiedo come possa Tinti fare dell'ironia su un popolo che è fierissimo, è quello veneto, che desidera nient'altro che essere libero. Un popolo veneto che ha visto molti dei suoi imprenditori spararsi un colpo in testa. Tinti deve avere rispetto non soltanto nei confronti del popolo veneto, che è anche il mio, ma abbia un po' di dignità per domani mattina quando si riguarderà allo specchio. Stiamo parlando di gente che si è tolta la vita e davanti a un atto così triste ed importante c'è bisogno di un rispetto. Su questo però, Sandrin, non è che voglio togliere le parole di bocca a Tinti. Tinti non ha mancato di rispetto alle persone che si tolgono la vita. Tinti, adesso non diciamo, il piano di discussione era di altro genere, cioè, o no, Tinti? Ma sa, questo signore, se vogliamo, un po' vigliacchetto, no? Esordisce facendo il rivoluzionario, poi quando gli si fa vedere che si può anche fare la rivoluzione, ma naturalmente c'è una reazione legale da parte dello Stato istituzionale, allora scopre che si muove nell'ambito delle leggi e che sta semplicemente dicendo una cosa ovvia: se non avete i soldi per pagare le imposte, guardate che c'è il ravvedimento. Però non c'era bisogno di Sandrin per saperlo, cioè da una parte lancia il sasso, poi quando gli fa notare che rischia di farsi male nasconde la mano. Se vogliamo spendere due parole sulla storia, sui dei suicidi, scusi, sì, che poi non sono ovviamente centinaia, ma purtroppo una situazione assolutamente dolorosa, ma che non ha la radice che dice Sandrin. È ovvio come stanno le cose. Da sempre, considerati i livelli dell'evasione fiscale italiana, centinaia di imprese, questo sì, traggono il loro profitto non dal profitto, come dire, di lavoro industriale, artigianale, professionale che sia, ma dall'evasione fiscale. Cioè la maggior parte degli imprenditori per anni, visto i livelli dell'evasione fiscale italiana, ha vissuto sul profitto dell'evasione fiscale. La maggior parte degli imprenditori. La maggior parte del popolo dell'IVA. Poi che cosa è successo? Ah, è arrivata la crisi. La crisi ha ridotto del 30% perlomeno il reddito che traevano dalla loro attività. Dall'altra parte lo Stato ha cominciato a cercare, sì, di recuperare con maggiore efficienza le imposte, è ovvio che sono trovati. Lei ce l'ha su tutte le volte, poi mi deve far litigare con il popolo delle partite IVA, che non sono solo la gran maggior parte delle persone che ci ascoltano, ma non è questo che mi interessa. Ma perché identifica sempre come il popolo delle partite IVA come quelli che vanno? Sono anche quelli che non riescono a pagare le tasse perché c'è una pressione fiscale enorme. Guardi, non cito il Sole 24 Ore, Dario Di Vico lo scrive tutti i giorni sul Corriere della Sera sulla maggior parte degli imprenditori che chiudono e muoiono dal punto di vista della chiusura dell'impresa per crediti, magari per crediti dallo Stato, per crediti dai fornitori, che non per debiti, e non pagano le tasse per quello, mica per altro. Senta, mi faccia spiegare due cose, perché se no c'è un equivoco di fondo. Io non è che ce l'ho col popolo dell'IVA, ma è una constatazione. Il lavoratore dipendente vorrebbe evadere, di questo ne sono sicuro, ma non può, perché le tasse gliele prendono prima. Ah, quindi lei parte dal principio che tutti sarebbero farabutti per principio, potendo. Ma in Italia c'è una cultura fiscale, come dire, primordiale, paleolitica. In Italia, sfortunatamente, ma ne parlavamo prima, l'evasione fiscale non è considerata un delitto gravissimo, è considerato un modo naturale di aggiustarsi, di badare alla propria famiglia, a se stessi. Chi evade è un furbo, è un problema culturale. Il nostro problema è proprio questo, a parte la crisi nazionale, naturalmente. Allora, i lavoratori dipendenti non possono evadere. Visto che abbiamo 200 miliardi all'anno di evasione fiscale, secondo lei da dove possono arrivare? Non è avercela col popolo dell'IVA, ma materialmente il popolo dell'IVA è l'unico che può fare del nero. Quindi, però è l'unico che può anche scomparire per crediti. Questo lei ha assolutamente ragione. Il punto due qual è? Che sfortunatamente, ma l'ho accennato prima, noi improvvisamente, come la maggior parte dei paesi per la verità, ma nel nostro il problema è complicato dal fatto che abbiamo una classe politica inesistente, ci siamo trovati a fare i conti con la crisi. Cioè è evidente che poi i poveretti del popolo dell'IVA si trovano di fronte a un carico fiscale insostenibile. Perché? Perché non guadagnano più abbastanza. È come una famiglia in cui improvvisamente uno dei redditi che prima entravano e garantivano una vita anche bella, improvvisamente non entra più. Siamo diventati poveri. No, ma è chiaro. Fatemi sentire però due ascoltatori, che io devo chiudere questo argomento. Vorrei sentire Luciano dalla provincia di Rovigo. Luciano, buongiorno. Sì, sono dalla provincia di Rovigo, buongiorno, però lavoro a Milano. Va bene. Purtroppo. Lavoravo in Veneto e ho dovuto emigrare. Dica la sua. Ma guardi, mi sembra che Tinti sia una di quelle persone che mente sapendo di mentire, nel senso che innanzitutto le tasse non sono un comandamento divino, ma è una cosa che paghiamo perché dovremmo avere un servizio. Lui sa benissimo che da noi italiani lo Stato incassa pro capite gli stessi soldi che incassa lo Stato tedesco o francese pro capite dai dai loro cittadini. Sì. Ma è come se io arrivassi in ristorante, pagassi 100 euro e mi danno una pizza, e al tedesco gli danno primo, secondo, antipasto. Vabbè, lei dice pago troppo a fronte dei servizi. Se io non ho un servizio, per quale motivo devo pagare, signor? Sì, ma questo problema è l'uovo o la gallina? Certo, però il problema, adesso devo andare al traffico, ma la questione è sempre questa: ma se pagassero tutti ci sarebbero più servizi? Questa è la linea di Tinti. Certo, ci sarebbero più servizi perché non ci sarebbe l'evasione. Secondo la linea invece, immagino, di Saldrin, no, se si pagasse di più lo Stato si ingloberebbe di più, aumenterebbe la spesa pubblica e non darebbe più servizi. Insomma, questo sono visioni economiche. Andiamo a sentire il traffico. La ringrazio, Luciano. Allora, sentirei anche Giuseppe da Messina, se è gentilmente rapido. Grazie, Giuseppe. Sì, sì, rapidissimo. Buongiorno, io sono un commercialista. Volevo portare solo una testimonianza per dire che quello che dice Sandrin, sono concorde con lui, che non sarà una rivoluzione, ma sarà purtroppo una necessità che molti contribuenti applicheranno, perché il ravvedimento è il 2,5% di interesse, come diceva lui, il 3%. Se li uniamo, alla fine arriviamo sempre a un vantaggio rispetto a un finanziamento, e molti clienti, vi dico ancora di più, che me lo stanno iniziando a chiedere, non per fare la rivoluzione, ma per esigenze. Cioè, lei dice, che lei, caro Giuseppe, che fa il commercialista, molti clienti dicono, sai che c'è, col ravvedimento operoso io alla fine quanto pago di tutto? No, mi hanno fatto questa richiesta, quanto pago? Io ho detto il 6% complessivamente. E allora mi conviene rispetto a un fegato. È meglio di un finanziamento. Quindi non sarà una rivoluzione, ma sarà una cosa naturale, a dispetto di Letta, che dice che le cose vanno bene. Come, mi scusi, una piccola parentesi, sì. Letta ha detto l'IMU sull'abitazione principale è stata abolita insieme a Berlusconi. Vabbè, c'è la mini IMU, c'è la mini. I commercialisti sono 2 settimane che lavorano sull'abitazione principale. Lo so, c'è la mini 2 IMU. Settimane, quindi dire falsità di questo tipo, dico, sono allucinante. C'è la mini IMU, ma lì no, ma è chiaro. Lo so, le persone in coda. Però guardate, su questo tema ritorniamo. Io ringrazio Giuseppe, ringrazio Carlo Sandrin da Washington e ovviamente buonanotte, visto che è stato con noi in piena notte. Ringrazio anche Bruno Tinti, torneremo su questo tema, vedremo se questa protesta di Sandrin va avanti. E noi da oggi, insomma, vorrò occuparmi un po' di questa vicenda dei vitalizi della Regione Lazio, sulla quale Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella hanno riportato e rimesso i riflettori, hanno riacceso i riflettori, perché alla Regione Lazio sapete che è stata disattesa una norma, aggirata la norma che era prevista dal governo Monti, che prevedeva mai più vitalizi a chi ha meno di 66 anni e soprattutto se non hai fatto 2 legislature. Tutto aggirato. Ma insomma, io intanto voglio ringraziare Pasqualina Napoletano, che è stata parlamentare europea per 4 legislature e consigliere regionale del Lazio per 2 legislature. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Aderisce ora a SEL, il partito. Intanto la ringrazio perché, sì, insomma, su questi argomenti non è mai facile metterci la faccia, come dico io. Lei gode di 2 vitalizi, dunque, no? Sì, esattamente. Visto che c'è stato questo appello di Rizzo e Stella. A dire cancelliamoli. Lei adesso è disposta a cancellarli? Guardi, io ho fatto i conti questa mattina e volevo dire a Rizzo e Stella che tranquillizzarli, perché praticamente nel mio caso io restituisco al fisco italiano un vitalizio per intero. Poi le racconto perché, com'è il meccanismo. In che senso? No, intanto iniziamo dai calcoli. C'è un vitalizio regionale, sì, che non si cumula con quello europeo, mentre quando io sono arrivata al Parlamento europeo nell'89, i colleghi che erano deputati nazionali continuavano, diciamo, una contribuzione. Sì. E io, che venivo dalla regione, infatti chiesi subito se potevo continuare, no? Collegare le 2 contribuzioni, sì, sì. E mi si disse di no, che non era possibile, perché naturalmente però le 2 amministrazioni... Andiamo con ordine, mi scusi, Napoletano. Sì, lei prende, sì, come vitalizio da 4 legislature da parlamentare europeo, quanto prende? Sì. Lordi 7.600 euro. Lordi, 7.600 al mese, che quindi sono netti? Tassata. Netti quanti sono? Netti, ecco, questo è il punto. 4.000? Come il Parlamento europeo, no, meno, il Parlamento europeo non fa le trattenute, sì, se le manda lorde, perché naturalmente, essendo 28 paesi, chiaro, ogni paese ha la sua fiscalità. Quindi quando arriva a luglio il calcolo del vitalizio europeo si somma al reddito già tassato, sì, che è quello della regione, quindi scatta l'aliquota, quindi su questo reddito io all'anno pago 80.000 euro di tasse, Vabbè, diciamo, che mi fa molto piacere e corrisponde esattamente ad un vitalizio. Quindi invece il attraverso la fiscalità, vabbè, ma è la via fiscale. Esattamente, io credo che questa sia la via più onesta, più limpida, anche perché questo reddito a me non arriva a Lussemburgo, arriva in una banca italiana. Ma è chiaro, comunque 7.600 euro al mese lordi, mentre dalla regione Lazio, come due legislature, quanto sarebbe? Guardi, io netti sono sui 4.000 e qualcosa, perché sono stati decurtati all'epoca del governo Monti, ci fu un taglio. Beh, ma è incredibile, cioè la sproporzione intanto tra regione Lazio e Parlamento europeo. Questo è da rilevare, sì. Il ben do della regione Lazio. Esatto, sono stati molto generosi, soprattutto tra gli anni 90 e il 2000, non si è capito più niente. So che adesso invece hanno cominciato a rivedere i sistemi, non si può andare più in pensione. E come? Così dicevano, in realtà l'hanno aggirato. Quindi esatto, invece non è vero. Ma io una cosa non l'ho capita, Napoletano. Cioè lei li può cumulare questi 7.600 più 4.000? Sì. È certo che li cumulo e pago le tasse e naturalmente la aliquota scatta al massimo livello su tutto il reddito. Ci mancherebbe, sono circa 8.000 euro al mese di pensione netti. Esatto, anche perché il Parlamento europeo, ripeto, non fa le trattenute, no? Quindi io, per esempio, a me converrebbe unificarli, perché non avrei la doppia tassazione. Se mi avessero consentito di aggiungere a quelli europei quelli, però sono sistemi che non comunicano. Ma mi scusi, sono sistemi che comunicano, ma per molti italiani è abbastanza incredibile che si possano avere già due pensioni, due vitalizi da due parlamenti. Sono dei contributi, nascono da contributi. Certo, lei ha accantonato. Evidente. Sì, ma quanti italiani possono cumulare due pensioni, per esempio? Questo naturalmente dipende dalla propria esperienza lavorativa. Secondo me in alcuni casi questo accade quando ci sono sistemi che non... Tra l'altro vi voglio mettere in avviso su un fatto che con questa legislatura tutti i deputati europei avranno una doppia, se vengono per esempio da una regione, ma anche dal Parlamento nazionale, a differenza del passato, i vitalizi non possono essere più unificati, perché il Parlamento europeo ha ormai una sua riforma e paga il Parlamento europeo. Ho capito, quindi... ma mi scusi Napoletano, io volevo capire, perché siamo in conclusione, la battaglia di Stella Rizzo era anche questi, proprio contro questi doppi vitalizi. Lei sarebbe disponibile a dire i diritti acquisiti, uno lo devo cedere, perché... Ma guardi, io uno lo cedo, perché con 80.000 euro di tasso lo cedo allo Stato italiano, ma paga in modo le tasse. Trasparente. Ma paga le tasse, non è che lo cede. Ma attraverso le tasse si ottiene esattamente lo stesso risultato. Ma lei, scusi, prende diciamo sui 3.500 dal Parlamento europeo e 4.000 netti dalla regione. Sono due, cioè perché dice che li cede? Perché dice che li cede? Questi li cedo con le tasse, perché alla fine pagando 80.000 euro all'anno ma di tasse praticamente costituiscono un vitalizio. Ma tutti gli italiani cedono una parte della loro con le tasse? In questo caso il cumulo crea questo effetto di doppia tassazione. Ecco, il cumulo che crea questo effetto di doppia tassazione. No, però insomma, questa è la cosa che non capivo, che lei ne prende due e... paga le tasse su questo come tutti gli italiani. In ogni caso mi devo fermare qui e la ringrazio, Pasqualina Napoletano, come detto ex parlamentare europeo, 4 legislature, ex consigliere regionale del Lazio. Su questa vicenda dei consiglieri regionali forse domani ci approfondiremo, perché ci sono anche gente che ha fatto 6 mesi o un anno e si prende ancora il vitalizio della regione Lazio. È una cosa così. E Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella hanno detto basta questa cosa, cancellatela. Vi ringrazio cari italiani, vi potete seguire anche su Twitter, Alino Milan. Ringrazio tutta la redazione, sto morendo. Miriam Lucchetti, stavo tossendo in onda. Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli e Peter Bescapè. A domani alle 6.30. Dai, dai con lo schema Allegri. Dai, dai. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.